Do il buongiorno a Giorgina P, autrice dello spettacolo Guida Immaginaria. Ciao Giorgina, benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao, buongiorno, bentrovate. Allora, Giorgina, dove ci porterà questo spettacolo dal titolo Guida Immaginaria? Allora, la guida immaginaria innanzitutto è un viaggio, non è esattamente uno spettacolo, nel senso che simula a tutti gli effetti una guida in cuffia. Peccato che però le opere non si vedono davvero, se non attraverso un libricino che ripropone alcune opere esistenti nel Museo dell'Acropoli e altre, diciamo, inventate, che io e Gabriele Portoghese abbiamo scelto per immaginare un percorso dentro archetipi, miti e anche stereotipi legati alla Grecia antica, che ci andava un po' di indagare e in qualche modo di riscolpire, appunto trattandosi di statue, a modo nostro e secondo uno sguardo critico non così conosciuto. Ci sarà un vero e proprio percorso, come una sorta di guida turistica, no? Come dicevi anche tu, un viaggio. Sarà a tappe? Come avverrà? Il viaggio è a tappe, ma è, diciamo, da fermi, quindi richiede un grande contributo di fantasia, una grande voglia di giocare, perché si hanno semplicemente delle cuffie sulle orecchie, un libricino tra le mani con una piccola torcia e un mondo di luci fantasmagoriche intorno che ci aiutano ad immaginare quello che la guida Costas ci descrive in cuffia. Come nasce l'idea di questo spettacolo, appunto di questo viaggio, come lo chiami tu? Ma è fortemente legato a un percorso di studio del mito che la nostra compagnia sta facendo a partire dallo spettacolo Tiresias, che tra l'altro sarà a Bologna subito dopo la guida il 31 ottobre al TPO. In questo studio della Grecia, diciamo, e anche in questa ricomposizione di un'idea del mito e della nostra necessità come artisti di indagarlo, ci è venuto in mente di giocare proprio con quello che è il luogo che per antonomasia conteneva ritualità e divinità, che era l'Acropoli. E siamo entrati nei tre piani meravigliosi di questo museo per cercare il più possibile di raccontare attraverso un sistema giocoso e festoso quello che abbiamo studiato e vissuto noi in questi anni. Quando e dove sarà lo spettacolo? Perché in realtà ancora non l'abbiamo detto. Sì, lo spettacolo sarà il 28 ottobre alle 19:30 ad Ateliersi in via San Vitale, un luogo del cuore, il luogo dove la scrittura della guida immaginaria è nata a marzo scorso, un luogo speciale e molto amato. Ci sarà solo uno spettacolo, quindi, come dire, solo giovedì la possibilità di vederlo, di partecipare, sì, solo a questo giovedì. Viaggio. Esatto. Okay. Perfetto, quindi insomma, per chi fosse interessato, direi di andare subito a comprare i biglietti, ecco, perché insomma, ci sarà solo una possibilità. Noi vi aspettiamo con fervore. Perfetto, grazie Giorgina per averci raccontato Guida Immaginaria. Ci vediamo giovedì ad Ateliersi, allora. Grazie a te, grazie a tutte e tutti.